8. I due bulli. Il giorno dopo, a ricreazione, Giovanna dice ad Alexandra: Alexandra, vieni con me a prendere la merenda alla macchinetta. Va bene, risponde Alexandra. Vicino alla macchinetta ci sono due ragazzine della prima A. Arrivano Tozzi e De Belli. Le ragazzine sono un po' spaventate. Una di loro dà un euro a Tozzi e va via senza merenda. Hai visto cosa fanno quei due? Ma perché nessuno protesta? Dice Alexandra. L'anno scorso la signora Mariella li ha portati dalla preside e la preside li ha rimproverati. E poi? Dopo qualche giorno qualcuno ha tagliato una ruota della macchina della signora Mariella. Cosa? E la polizia? La polizia non può fare nulla. Tutti sanno che sono stati loro, ma non ci sono prove. Tozzi e De Belli vanno via. Alexandra e Giovanna prendono le merende e tornano in classe. Perché fanno così? Chiede Alexandra. Non hanno soldi? No, fanno così perché si divertono. Vogliono essere i più forti. Hai visto la ragazza della prima? Era spaventata, dice Alexandra. Sì, che cosa facciamo? Chiede Giovanna. Possiamo spiarli? Sì, facciamo le investigatrici. Dobbiamo avere le prove. Cosa sono le investigatrici? Quelle che trovano i colpevoli. Ma dobbiamo avere un nome. Dunque, ecco, Alex e Joe le investigatrici. Sì, Alex e Joe le investigatrici, dice Alexandra.